Allora, adesso no, ti parlerò di questo paragrafo, di questo capitolo del libro di Galimberti, Miti del nostro tempo, e il capitolo è Mito della tecnica. Ecco, Galimberti chiarisce subito una cosa importante, che l'uomo è tecnico per natura, è la sua caratteristica, perché mentre gli animali sono dotati di istinti, l'uomo non ha istinti. E la tecnica è la condizione dell'uomo per poter sopravvivere. Ecco, questo è un punto centrale, no? E richiama un mito di cui ci ho già parlato, quello di Epimeteo e di Prometeo. Zeus chiamò Epimeteo perché scegliesse le qualità, cioè gli istinti da dare ai vari animali. Quando si trattò di dare poi qualità, gli istinti all'uomo, Epimeteo aveva finito, non ne aveva più. Allora Zeus chiamò Prometeo, il quale consegnò all'uomo la capacità di prevedere, ecco, di guardare al futuro. Ora, Epimeteo vuol dire colui che pensa dopo, cioè colui che è sprovveduto, che fa le cose senza pensare, mentre Prometeo, Demeteo, è colui che pensa prima, cioè proprio colui che prevede, che pensa in anticipo. Bene, questa sarebbe la differenza tra l'uomo e gli animali. E quindi l'uomo è privo di istinti. Cosa si intende per istinto? L'istinto si intende qualcosa al nostro interno, qualcosa all'interno dell'animale che lo spinge ad avere una reazione automatica. Ecco, di fronte, se a un bovino gli dai del fieno, automaticamente si viene attirato e lo mangia, se gli dai un pezzo di carne si ritira. Se a un animale gli si fa vedere uno stimolo sessuale, si attiva sessualmente. A un uomo, se gli si presenta uno stimolo sessuale, può darsi che si attivi sessualmente, ma non è assolutamente detto. Potrebbe, per esempio, fare tutt'altro, per esempio scrivere una poesia, scrivere un'opera d'arte, potrebbe sentirne repulsione, potrebbe avere una perversione, ecco. Quindi, in questo senso, l'uomo, a differenza degli animali, è libero nella scelta, cioè ha una variabilità di risposta molto superiore agli animali. Questa libertà, però, non viene dal cielo, così è stato questo dono, è semplicemente, dice Galimberti, la conseguenza della sua insufficienza biologica al vivere. Cioè, l'uomo, per poter vivere, ha bisogno di sviluppare tecnica, altrimenti un animale è una scimmia mai riuscita, l'uomo. Ecco. Quindi è più debole di altri animali, per poter sopravvivere ha bisogno di sviluppare la tecnica. Infatti Galimberti dice che si potrebbe dire che l'uomo nasce nel momento in cui il primo primate, il suo antenato, per la prima volta, per poter raggiungere un frutto, si servì di un bastone, ecco, cioè utilizzò una tecnica. A proposito, il linguaggio, che è tipicamente umano, è una tecnica. È considerato appunto una tecnica, una capacità che l'uomo ha sviluppato, un'abilità che l'uomo ha sviluppato. Dunque, perché stiamo parlando della tecnica? Stiamo parlando della tecnica, delle tecnoscienze, sempre, se, seguendo il discorso di Galimberti, nei miti del nostro tempo, ce ne stiamo occupando. Perché oggi la tecnica, la tecnoscienza è diventata un problema. Oggi la tecnoscienza sta probabilmente creando più problemi di quanto non riesce a risolvere, ci sta mettendo in difficoltà e forse a rischio di sopravvivenza. È la tecnica, la tecnoscienza che è diventata la protagonista della storia, non più l'uomo. L'uomo, dice Galimberti, è ridotto a un funzionario degli apparati della tecnica. Infatti, all'interno di questi apparati, egli deve compiere le azioni descritte dal suo mansionario, mentre la sua persona è messa tra parentesi a favore della sua funzionalità. Vabbè, questi sono temi trattati ampiamente già da Marx, quando parlava dell'alienazione dell'essere umano che è inserito in una catena di produzione di cui lui non capisce lo scopo, in cui proprio lui diventa una merce come un'altra, ecco, che quindi si mette al servizio di questa catena produttiva. Bene, Allora, abbiamo detto che la tecnica, la tecnoscienza, oggi col suo strapotere, che poi si è tradotto nella peggiore delle cose, cioè nel consumismo, sta mettendo l'uomo a rischio di estinzione. La tecnica, comunque, è stata oggetto di riflessione problematizzata già all'epoca dei Greci, ecco, già prima della nascita della filosofia. Eschilo ha affrontato questo tema nel Prometeo incatenato. Due parole a proposito delle tragedie. Beh, le tragedie non erano solo rappresentazioni teatrali che si facevano per commuovere le persone, per intrattenere, no, no. Al contrario, quando nelle città sorgevano dei problemi, dice Galimberti, è proprio lì che venivano rappresentati nel teatro. Cioè il teatro serviva a rappresentare i problemi politici, i problemi che le persone avevano, in modo da inserirli in una dimensione sacrale. Perché sacrale? Beh, perché teatro ha un prefisso, ha una te, e tutte le parole greche cominciano per te, quindi teos, teorema, teatron, contengono riferimento al sacro. E vediamo, passiamo a vedere il contenuto della tragedia di Eschilo. Dunque. Prometeo, amico degli uomini, dona loro il fuoco con cui possono trasformare i metalli e produrre strumenti. Dà loro la capacità del calcolo, della previsione e in qualche modo i principi della operatività tecnica. A questo punto, però, Zeus diventa timoroso che gli uomini, grazie alla tecnica, possano diventare più potenti degli dèi. E già in questo passaggio si intravede il tema del conflitto possibile tra religione e scienza, perché con la scienza e con la tecnica, infatti, è possibile ottenere ciò che un tempo si poteva ottenere solo sperando nella clemenza degli dèi, pregando gli dèi. E quindi cosa fa Zeus? Zeus punisce Prometeo, lo lega su una roccia e un'aquila verrà a rodergli il fegato tutti i giorni, il fegato però che ricresce. E guarda caso, proprio l'organo del fegato, perché i miti greci non sono solo racconti fantasiosi, ma contengono molto sapere, molta scienza. E probabilmente il fegato, nel fatto che il fegato si riformi, era una conoscenza che i greci avevano. Negli studi medici che venivano compiuti all'isola di Kos, avevano scoperto che le cellule del fegato si riproducono molto più rapidamente di tutti gli altri organi, quindi entro un mese si riproducono. Va bene, qui l'intervento di Zeus che punisce gli uomini, che punisce Prometeo, amico degli uomini, fa parte del grande tema riguardante tutta la teologia dei greci, che gli dèi sono invidiosi degli uomini. Allora, stavo dicendo che è un tema fondamentale della teologia dei greci, l'idea che l'autonos theon, cioè l'invidia degli dèi, che quando gli esseri umani, le cose vanno troppo bene, gli dèi diventano invidiosi e li puniscono. Quindi gli esseri umani devono tenere nei loro limiti e non devono commettere il peccato di hubris, cioè di tracotanza, di andare oltre quelli che sono i loro limiti. Perché se no gli dèi intervengono e li puniscono. Questa è un po' la visione che c'è nei greci. Vabbè, in questo caso Prometeo, amico degli uomini, che dà agli uomini la tecnica, proprio perché la tecnica è qualcosa che li può rende la vita più facile, che gli può dare più potere, beh, a un certo punto scatena l'ira di Zeus. Comunque, sempre nella tragedia di Eschilo, a un certo punto il coro chiede a Prometeo se sia più forte la tecnica oppure la natura. E Prometeo dice, beh, certamente la natura, perché la natura è molto, la tecnica è di gran lunga più debole della necessità che vinca la natura, che è immobile, è immutabile, è regolata dalle sue leggi. E anche Sofocle nell'Antigone racconta che l'aratro solca la terra, però la terra poi si ricompone dopo il suo passaggio, la nave solca il mare, ma la nave poi le onde si ricompongono presto in una calma trasognata. Quindi la natura è guidata dalla necessità e la tecnica non può mai oltrepassare la legge che governa la natura. Tuttavia, avverte Galimberti, la risposta di Prometeo è corretta solo perché la tecnica all'epoca dei greci era molto modesta. Oggi la risposta sarebbe di tipo diverso, perché gli uomini sono in grado non di cambiare le leggi della natura, questo no, ma possono, per esempio, compiere dei misfatti terribili, come distruggere la vita sulla terra, questo sono in grado di farlo benissimo, e questo grazie alla tecnica. Dunque, la domanda è più forte la tecnica, o la natura? Per comprendere la natura di la ruggine di questa domanda, per capirla, bisogna collocarsi nella mentalità del pensiero greco, che è molto diverso da quello nostro, che deriva dalla cultura giudaico-cristiana. Nella cultura giudaico-cristiana, infatti, la natura è il prodotto della volontà di Dio. Quindi ha un determinate leggi, determinate caratteristiche, ma avrebbe potuto anche averne anche altre se Dio avesse voluto. E poi si dice Dio consegna agli uomini la natura, la terra, perché su di essa possano esercitare il loro potere. Dio infatti affida ad Adamo il dominio sugli animali, sui pesci, sui volatili del cielo. Quindi la natura è concepita come prodotto della volontà di Dio, consegnata al dominio dell'uomo. È proprio nella Genesi c'è scritto: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, e domini sopra i pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sugli animali domestici, su tutte le fiere della terra e sopra tutti i rettili che strisciano sulla sua superficie. Beh, nel mondo greco tutto ciò è inconcepibile, perché per i greci la natura è un tutto immutabile, governato da una categoria importante, fondamentale, potentissima, la necessità, ananche. Come ci ricorda Eraclito, le leggi della natura non possono subire modificazioni, perché questo cosmo è fatto in modo, sarà sempre così, è immutabile, non è un prodotto della volontà di un Dio. E anche Platone dice, guardate che non per te questa vita si svolge, ma piuttosto vieni generato per la vita cosmica, rivolgendosi all'uomo. Bene. Quindi, dice Galimberti, tutti coloro che pensano che i greci, in particolare Platone, siano anticipatori della cultura cristiana, o non hanno capito i greci, o non hanno capito il cristianesimo, perché tra i due scenari c'è un abisso. Secondo la mentalità greca, gli uomini non devono dominare la natura, se non guardate bene, devono, perché quello sarebbe un atto di tracotanza. Gli uomini devono contemplare la natura, coglierne le costanti, capirne le leggi, questo sì, ma perché? Perché si devono uniformare alle leggi della natura, cioè devono costruire l'ordine città e l'ordine dell'anima in base alle costanti della natura, capire la natura per poter vivere la natura in modo sensato e saggio. La natura quindi è l'orizzonte di riferimento sia per la politica, quindi per il governo della città, sia per il governo dell'anima. E invece nella tradizione giudaico-cristiana la natura è consegnata all'uomo finché la domini, e quindi è uno scenario completamente diverso.